prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Tra pochi giorni celebreremo, e se ne parlerà in molti spazi, l'8 di marzo. Noi anticipiamo questa ondata di notizie sulle donne parlando di ciò che molte donne consacrate, religiose, fanno per altre donne in difficoltà. Traggo spunto questa settimana dalla pagina dedicata alla Caritas nel numero di domenica scorsa della Difesa del Popolo. Sono molte appunto le donne, suore, religiose che in nome della fede e del carisma del proprio ordine si mettono accanto quotidianamente ad altre donne che sono in situazione di disagio, a volte anche in situazione di pericolo, per offrire loro un punto d'appoggio da cui iniziare a progettare una vita nuova che spesso ha al centro la presenza reale di Dio. Sono presenti tutti i giorni, ci sono tre ordini, le comboniane, le suore della Divina Volontà e le francescane dei poveri, ma poi ci sono anche tutte le altre, le ermite, le operaie, le salesie, le elisabettine, le suore di messe che nelle loro strutture e comunità distribuiscono pasti, accolgono persone, danno vestiti, ascoltano soprattutto negli sportelli del Fondo Straordinario di Solidarietà. Tra l'altro proprio su questo rifaremo un appello. Donne per le donne, dicevamo. Ad esempio l'esperienza delle suore comboniane, ne accolgono fino a 14 al Centro Mondo Amico che si trova in zona Mandria a Padova. Le accolgono anche con i bambini, sono generalmente in situazione grave di marginalità sociale, cercano asilo politico oppure l'emergenza freddo. Ormai sì, stiamo uscendo dall'inverno, ma comunque anche le piogge dei giorni scorsi certamente non hanno aiutato. Le comboniane tra l'altro hanno come mission o come carisma, si dovrebbe dire, proprio la promozione della donna, e è un'esperienza bella anche se faticosa e dolorosa. Donne vicino alle donne, le vittime che hanno sulla loro pelle i segni di tante sofferenze morali, fisiche e spirituali. Una di queste suore comboniane, Suor Giovanna, è stata missionaria per molti anni in Africa, negli Stati Uniti, da qualche mese si trova a Padova. E appunto diceva, c'è la possibilità in Italia, nel Veneto, di stare accanto a delle sorelle, altre donne in difficoltà, con cui si cerca di instaurare un rapporto che sia davvero intimo, perché in loro vediamo quel Dio che cerca un cuore e una casa e un'amicizia. Danno l'opportunità appunto davvero di concretizzare, rendere reali le opere di misericordia. Il progetto Caritas di pronto intervento prevede 4 posti letto gestite dalle suore della Divina Volontà, permanenze brevi in questo caso, massimo per un mese. Donne vittime di incidenti oppure malate in attesa dei ricoveri in degli hospital, persone che cercano lavoro, hanno bisogno di un punto di appoggio temporaneo dove potersi riorganizzare, oppure inviate dai servizi sociali dei comuni perché maltrattate o sfrattate. Anche queste sono esperienze magari numericamente non enormi, perché abbiamo detto 4 posti letto, ma comunque significativi. Altri numeri piccoli: 6 posti letto, un laboratorio occupazionale, un centro di accoglienza, quello che mettono a disposizione le suore francescane dei poveri, in questo caso per le donne vittime della tratta. Ospiti giovani, ma anche meno giovani, che chiedono di essere aiutate nella loro situazione. Le attese che hanno spesso però non sono raggiungibili, racconta Suor Tina Ventimiglia. Sono donne ferite dalla violenza, in accordo con la questura e l'assistente sociale e la Caritas vanno tenute in un luogo protetto, come è appunto questo. Esperienze davvero interessanti, ho preso solo qualche stralcio di questo ampio racconto che, ripeto, si trova a pagina 18 dell'ultimo numero della Difesa del Popolo. Rilanciamo anche in questa puntata l'appello della Caritas diocesana di Padova per la ricerca di volontari, perché col mese di aprile ripartirà il Fondo Straordinario di Solidarietà, che cerca dei volontari da affiancare al gruppo di quelli che attualmente sono già in servizio, esperti in tutti gli sportelli, che sono Padova Guizza, Padova Arcella, Vigonza, Piove di Sacco, Monselice Este, Montagnana, Rubano, Arsego Curtarolo, Romano Dezzelino, Tiene Asiago. luogo, quindi davvero c'è un po' tutto il territorio diocesano che è coperto. Al volontario che cosa viene chiesto? Di essere disponibile per una presenza settimanale oppure quindicinale allo sportello nel suo turno di apertura per circa 8-9 mesi all'anno. Si chiedono anche un paio d'ore alla settimana in orari liberi che ci si può organizzare per qualche contatto nel territorio, e poi serve una minima conoscenza del computer per gestire una procedura semplice e ben collaudata. Questo diciamo dal punto di vista tecnico-organizzativo. Dal punto di vista umano è richiesta cordialità nel colloquio con le persone, pazienza nell'ascoltare, anche questo è importante, un po' di fantasia nel cercare delle soluzioni, perché appunto le persone che vengono a chiedere aiuto ovviamente hanno delle aspettative, abbiamo sentito, spesso magari sono più alte di ciò che è possibile realizzare, e qualcosa in più si può realizzare proprio con un po' di fantasia. E poi serve un po' di voglia di far parte di un gruppo di operatori, perché non si lavora da soli. Per dare la propria disponibilità, per proporre la propria candidatura, per chiedere ulteriori informazioni, si può telefonare alla sede della Caritas diocesana di Padova dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 al numero 049 877 17 22 e tutti gli altri dettagli come sempre sul sito caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.